con loro permission, che venga avanti. Torni di nuovo a farmi disperare. Il signor Conte la vorria inchinare. Il Conte Eugenio, ahimè, non sono all'ordine. Dicami un sol momento di pazienza, che verrò posto a farle riverenza. È permesso, mia bella? Signor Conte, si inganna, io non sono quella. Ah, siete voi, bellissima Dorina. Scusi se la padrona anche un momento, attenderla farà. Si serva pure. Che nobil portamento, che grazia, che maestà, che gentilezza. Ah, voi siete la dea della bellezza. Io non sono dea, signor, ma sono una servetta. Oh, quanto che m'hanno. Tenete con le mani. Ma per pietà, stendi la bella mano. O che quei piedi, morto precipitato, non mi vedi.